Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, in programma abbiamo di parlare di due imperativi, di tre nomi e tre aggettivi, di un turpe caso di appropriazione indebita nel campo simbolico, nonché di paradigmi feriti e sanati al volo. Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva.